Sopra il viso e già mi sento come dentro in paradiso. Banale come paragone a tuo avviso, ma se mi becca all'improvviso do risposte senza senso come l'hai deciso. Ho deciso, sarò preciso della parola sensuale. Il tuo corpo intriso con il fiato sospeso, tu il cuore mi hai preso e rimango sorpreso. Mi hai reso un cardio leso. Qui il caldo abbonda, giochiamo a fare io Tarzan, tu sei in fonda. La tua bellezza sfonda, sfonda tipo onda. Tanto che platinette, sembra la Gioconda. Tu sei calamita per un magnete, lo zucchero per il diabete, fuoco per un abete, acqua santa per un prete. Io e tu due come te, che spaziamo senza avere mete. Se sei suono non sai, no che non lo sai. Tutti gli attributi che hai, quelli che tu sai. Tutti gli sguardi che fai, non li perdo mai. Sei sensuale, no che non lo sai. Tutti gli attributi che hai, quelli che tu sai. Tutti gli sguardi che fai, non li perdo mai. Sei sensuale. Quanto sensuale non so, a spiegare ci sto. E che mi pigli troppo bene è l'unica cosa che so. Tra l'ira e il fare c'è di mezzo al mare. Se non so spiegare quanto sei sensuale, come muovi delicatamente i tuoi capelli, sembra di sentire mille angeli con campanelli. Non ti prendo per i fondelli e se mi crederai esulterò come l'82 Tardelli. Spettacolare ti rendi quando ti spazi ti prendi. E se non ti offendi vorrei collaudare con te lavatrice Candy. So che non ti vendi, mi ubriachi tipo Brandy quando la tua bellezza espandi attorno a me. Su di me ora che so cos'è, so che cos'è. Sei troppo sensuale. Sì, sensuale, non mi lasci distrazione in una trappola infernale che si chiama attrazione. Tu sei sensuale, non funziona. No, che non lo sai. Tutti gli attributi che hai, quelli che tu sai. Tutti gli sguardi che fai, non li perdo mai. Sei sensuale, tu sei sensuale, non funziona. No, che non lo sai. Tutti gli attributi che hai, quelli che tu sai. Tutti gli sguardi che fai, non li perdo mai. Sei sensuale. Sensuale non sei, in tutti gli attributi che hai, tutti gli sguardi che fai, quanto sei sensuale. Quanto sei sensuale non sei, in tutti gli attributi che hai, tutti gli sguardi che fai, quanto sei sensuale. Quanto sei sensuale non sei, in tutti gli attributi che hai, sguardi che fai, quanto sei sensuale. Sei sensuale, non sei.